Artaud dice, ma quelli erano schiavisti. Quando si dà un giudizio su Via Volvento, si dà un giudizio se ti piace o se non ti piace, se la storia è raccontata bene, se le emozioni, i sentimenti di quell'Oghetta, di Rossello Avara, dell'imbecille di Ashley, o dell'altro, rese bene, insomma. Se il sentimento della distruzione di un mondo e di una civiltà, che era l'incendio d'Atlanta, la fine di un mondo, se quel sentimento, il modo è narrato bene, è credibile, tu dici i medesimi o meno o no. Questo è il... No, diceva, erano schiavisti. La gente non se lo ricorda, sto piccolo particolare. Insomma, e a me invece tocca discutere del fascismo. Non tanto del fascismo, tanto del modo corretto di raccontare il fascismo. Allora, io ho fatto un romanzo storico. E quindi prima di fare il romanzo mi sono anche documentato, ho studiato, ho passato la mia vita a studiare queste cose. Il mio è un romanzo. Quando si dice che però questi sono temi di cui la storiografia si è dilungata a lungo e diffusamente, ma senza trovare la possibilità di trovare interpretazioni univoche. E questo non lo so, perché non è che io faccio narrazione e poi gli altri fanno scienza per il semplice fatto che il mio si chiama romanzo e l'altro e gli altri si chiamano saggi storiografici. Cioè, non è sufficiente che tu stai in cattedra all'università col bollo di essere storico ufficiale perché poi quello che fai tu sia effettivamente storiografia, sia poi fatto scientifico, non so se è probabile, anzi ho la sensazione che tanti saggi storiografici, tante siano narrazioni tali e quali alle mie, cioè non fondate su fatti reali, cioè siano interpretazioni di fantasia, quanto più come certi romanzi, perché sì, io sono un narratore, quando faccio i romanzi sono un narratore, ma quando studio la storia, insomma, la storia l'ho studiata anch'io, insomma, so come si fa il fare storia. So per esempio che tra il documento e l'interpretazione del documento passa qualche piccola differenza. E quello che so soprattutto è che la storia va fatta, è un mestiere difficile fare storia. Ma ripeto, non è sufficiente che ti abbiano dato la corona d'alloro alla sapienza, perché quello che tu dici dopo diventa automaticamente verità. Quello che è necessario è soprattutto non nascondere i fatti. Tu dai comunque sempre una interpretazione del fatto storico, ma la prima regola è che tu non lo puoi, lo storico non può prendere in esame solo i fatti che gli fanno comodo e quelli che non gli fanno comodo li nascondo, quelli che non trovo, non li ho visti. Anche in buona fede, perché c'è un meccanismo psicologico che si chiama quello della rimozione psicologica, che è perfettamente studiato, allora la gente per tutta la vita passa per una strada e non li vede certi angoli o certi cantoni, è un meccanismo di rimozione psicologica. Prima di fare questo libro che si chiama Canale Mussolini, io ne avevo fatto un altro, uscito con la terza, che si chiamava Fascio e Martello, viaggio per le città del Duce, dove riportavo i frutti delle ricerche di alcuni studi che avevo fatto su un piccolissimo segmento dell'universo del ventennio fascista, dell'Italia durante il fascismo, un piccolissimo segmento che era quello di bonifiche e fondazioni di città nuove. Rispetto a quello la storiografia ufficiale aveva detto poco e niente, e ragionava sulla base di un dato che era quello di 12 città di fondazione costruite dal fascismo e della sola bonifica dell'Agropontino. Ragionando su quel dato aveva elaborato una interpretazione che dice che le bonifiche erano fatte solo per scopo propagandistico, punto e basta, ed erano una deportazione dei lavoratori, eccetera, eccetera. Beh, in quel libro io mi ero trovato invece tutte le bonifiche fatte in tutto il centro-sud, dalla Puglia alla Campania alla Sicilia alla Sardegna, in Sicilia solo 500.000 ettari di terra, e verificando che poi le città, i nuclei di fondazione non erano solo 12 come ci avevano detto, ma erano almeno 147. Questo, a differenza dei numeri, pone differenza di interpretazione del fenomeno delle bonifiche o meno? Il fenomeno delle bonifiche non è stato analizzato neanche da De Felice. De Felice scrive migliaia di pagine, ma sulle bonifiche sono due righe, non le valutano. Gli stessi storici della politica si sono occupati del fascismo di sinistra, hanno inteso che il fascismo di sinistra solo il pensiero, le riviste, Bertolucci, Vittorini, queste cose hanno... I fatti, quelli che si chiamavano una volta strutturali, le bonifiche, la redistribuzione delle terre, questo non l'aveva valutato nessuno. Non so se... io sono partito da qui per dire che non è vero che non è possibile costruire una memoria condivisa. Non è possibile costruire una memoria condivisa se ognuno si tiene i suoi ricordi, se li ricostruisce e si vieta di metterli in discussione e di verificarli con i ricordi altrui. Allora andiamo avanti così, in questo senso, motivo per cui noi ci costruiamo la Vulgata, perché è vero poi che di alcune cose i gruppi dirigenti o l'intelligenza della sinistra se le sono anche dette, fra di loro però, senza ci sono diversi dirigenti anche dell'estrema sinistra che, ma sì, il fascismo le bonifiche le ha fatte per conto loro, poi sul manifesto non l'hanno mai scritto però. Quindi un paio di mani che sono le acquisizioni a livello dei salotti e poi le altre cose si sono dette al popolo della sinistra. E quindi l'immagine che si è costruita in questi anni, no, è che il fascismo, il ventennio fascista, è stata un'esperienza assolutamente, totalmente negativa, è stato un cancro ed un tumore che si è presentato nella storia italiana, va reciso tutto, punto e basta. Non è andata così. Che il giudizio storico, allora io avrei voluto parlare del mio romanzo, non della storia, insomma, io, però poi vengo trascinato perché... No, non è andata così, perché noi siamo qui adesso nella fondazione Lelio Basso. Non è fare un torto alla memoria dell'Elio Basso dire che gli antifascisti veri fino al 38, 40 e 41 erano pochissimi. È un torto, eventualmente il contrario. È un torto il farsi scudo dell'Elio Basso e degli altri pochi per dire che eravamo tutti antifascisti. Non è andata così. I numeri sono altri. I numeri sono che se tu escludi, metti i 30.000 tra processi, tra tribunale speciale, deportati a confinati, a quei 30.000 ci aggiungi i 30.000 fuoriusciti all'estero e fai 60, poi diciamo 40.000 della rete clandestina del PC, stop, no del PSI, degli azionisti e di tutto il resto. Questi sono arrivati e sono cresciuti molto dopo. La rete clandestina era quella del PC, tu arrivi a 40.000, diciamo sono 100.000, moltiplica per 10 dicendo ognuno di loro, i 10 loro parenti e familiari, tu arrivi a 1.000.000. 1.000.000 rispetto a 42 milioni che di quelli del popolo italiano fa il 2,5%. Il 97,5% del popolo italiano nutre il consenso per il fascismo non fino al 38 e basta, fino alle leggi razziali, ma nutre il consenso al fascismo fino alla guerra di Grecia, quando prendiamo le bastonate in Grecia, e poi il 43 quando arrivano i bombardamenti qui, perché anche durante le leggi razziali l'atteggiamento, le uniche risposte che si sentono, le uniche opposizioni che si alzano sono quelle di Italo Balbo e di Emilio De Bono in Gran Consiglio del Fascismo. Poi non c'è un solo muro di tutta Italia in cui appaia la scritta no alle leggi razziali. Complessivamente quindi come popolo italiano, nella sua stragrande maggioranza, 97,5%, noi rispetto alle leggi razziali ci siamo semplicemente voltati dall'altra parte, dicendo cazzo me fregami, mica sono ebreo mi. Questo è l'atteggiamento di tutto il popolo italiano, chiesa per prima. Dice, vabbè, ma poi li abbiamo, però poi quando sono arrivati i tedeschi li abbiamo protetti. Questo è un altro paio di maniche. Ne hai protetto qualcuno dopo, ma al momento tu ti sei semplicemente voltato dall'altra parte. Quindi c'è una responsabilità complessiva dell'intero popolo italiano. Allora voglio dire, è chiaro che il giudizio storico complessivo sull'intero periodo non può non essere assolutamente senza appello negativo, no? Perché quello è un periodo di 23 anni che si chiude con le leggi razziali, che è l'infame più grossa, con le guerre, dice la dittatura, fermi, anche sulla dittatura è meglio capirsi bene. Le questioni della libertà non le possiamo misurare con il nostro concetto di libertà che abbiamo noi oggi, perché anche sulle questioni della libertà bisogna vedere. Perché quelli nel 22 presero il potere non solo con la violenza, utilizzando anche la violenza, ma presero il potere perché dopo il crollo, dopo il biennio rosso del 19-21 c'è stato il riflusso delle lotte. Tu hai fatto le lotte e non gli hai dato nessuno sbocco, c'era il vuoto di potere, lo Stato liberale era caduto per conto suo. E c'è una trasmigrazione di massa dalle leghe socialiste al movimento fascista. Queste cose le ha studiate pure Salvatore Lupo. Non è vero che arrivano al potere solo con gli agrai, arrivano al potere con i mezzadri del nord e coi braccianti del sud. Questi sono i fatti. Ma comunque dicevo, noi come classi oppresse, come classi subalterne, tanta libertà non ce l'avevamo mai avuta neanche prima. Al voto, il suffragio universale, tu ce l'hai nel 1948, lì è la prima volta che votano le donne, tanta libertà non ce l'avevamo mai avuta manco prima. Quello Stato liberale, e non era uno Stato democratico di diritto, quello Stato liberale era lo Stato, io non lo so voi, ma nella mia famiglia funziona così, ha funzionato così, che la prima generazione che è andata a scuola e all'università è la mia, siamo noi, io, i miei fratelli e le mie sorelle. Ma dietro di me ci stanno solo semi-analfabeti o analfabeti, dietro di me ci stanno operai, contadini poveri, mezzadri, servi della gleba, schiavi, le classi subalterne. Beh, noi tanta libertà non ce l'avevamo mai avuta manco prima, perché tutte le volte abbiamo provato, ci hanno mandato i soldati a spararci addosso, alle leghe contadine, queste, tanta libertà non ce l'abbiamo avuta manco prima. Io ho la sensazione che tanta libertà le classi subalterne non ce l'hanno manco neanche adesso, perché se voi mi dite che è democrazia, io dico vabbè, lo dite voi, che me frega a me mi pare più un'oligarchia, è da un pezzo però, e la colpa non è solo di Berlusconi però, non so se... che la prima libertà è quella dal bisogno, e la libertà è quella dalle costrizioni, tu mi devi mettere tutti nelle stesse condizioni, no? Un paese, abbiate pazienza. Paese in cui fai il notaio solo se sei figlio di notaio, fai il professore universitario solo se sei figlio del professore universitario o se quantomeno c'hai una famiglia dietro che è in grado di sostenerti fino ai 40-45 anni. Significa che il figlio di un operaio non ci può arrivare, perché il massimo che può fare un operaio è portarti fino alla laurea, poi un compà va a lavorare perché papà non ce la fa, non so se... E però guardate, sia chiaro che non c'è... Non, io non è che sto incazzato solo con la destra, io sto incazzato un po' con tutti quando penso a queste cose, perché anche nel PC poi operai, bello l'operaio, mazza che bello, però i gruppi dirigenti eccetera, sempre da quelle classi là, sono venuti e allora sto un po' incazzato, non so se. E quando. Allora che il giudizio storico sull'esperienza fascista non possa non essere assolutamente negativo, perché si chiude con le leggi razziali, con le guerre dichiarate e perse soprattutto. hai proprio condotto il paese al disastro, il giudizio è senza appello. Ma l'accusa che mi viene fatta, mi è stata scritta sul manifesto, dice Pennacchi mente, è quell'accusa di aver trattato i fascisti come se fossero persone. Perché che dicendo che hanno fatto le bonifiche, che io do un'immagine, io non voglio dare, è la verità. Tu non puoi dare un giudizio storico raccontando solo il male che quelli hanno fatto. No, il giudizio storico si dà prendendo, se no non ti rendi conto di niente. Allora, la porta prima parlava della letteratura. Io sto incazzato come una bestia con tutta la storia della letteratura italiana. Eh sì, perché lui dice che loro hanno il culto della bella pagina, della bella frase. No, la po', ce l'ho pure io il culto della bella pagina e della bella frase. Solo perché la pagina è il lavoro di meno, io la lavoro 12 volte. Solo che la bella pagina mia o la bella frase per me è totalmente diversa da quella per loro. La nostra è una storia della letteratura, soprattutto una storia della critica letteraria, che a Pratolini gli ha fatto credere che Metello non valesse niente. Lui sottostimava il valore di Metello, diceva, ma non è quello che devo fare il non romanzo, devo fare l'introspezione psicologica, perché Vittorini, Calvino, tutti. Ma vatti a vedere le date, Pratolini smette di scrivere appena esce fuori il gruppo 63. E non scrive più niente, dice, che sono scemo, che scrive più? Perché qui dicevano, no, il romanzo deve essere il non romanzo, deve essere l'introspezione psicologica, ma leggetevelo, Pedello. Nel Medello c'è sta l'introspezione psicologica, solo che quello fa romanzo, che l'introspezione psicologica del romanzo è data dal racconto delle cose che fai, perché il romanzo è res geste. Per l'intelligenza italiana, per l'intellettualità italiana, no, da Vittorini al gruppo 63, da Pietro Bembo al gruppo 63, per loro il romanzo è res cogite, non è res gesti. Dice, ma che sta a fare? Ma questo è scemo? A me mi hanno scritto così, ma questo è matto, poi si ripetendo ancora a fare il romanzo storico. Sì, faccio il romanzo storico perché loro non erano in grado di farlo il romanzo storico, perché non c'erano niente da raccontare. Che racconti se stai sempre dentro lo stanzetto di casa tua? Chi te le racconta le storie vere? Come facevano a vederlo il popolo che emigrava? Voi dite la Mazzucco, fermatevi, la Mazzucco l'ha scritto ieri pure lei, è la generazione mia. Pensate a quelli prima, no? Di Donato, ma se lo scrive là in America, in americano. Loro, come dice lui, quelle De Amicis, e quattro racconti dei testori, quelli del Ponte della Ghisolfa, la Gilda del Mac Mahon, quelli che originano poi il Rocco e i suoi fratelli. Niente, allora il problema dell'autostop, quello che è stato l'autostrada del sole, l'autostop, quello che ha significato l'autostop, non esiste proprio, perché stanno da un'altra parte, sì, raccontiamo, ma pensa solo a quello che è il tema del magico religioso. Il magico religioso nella letteratura italiana non c'è. Oserei dire che c'è il magico religioso in tutta, solo in Caproni ci sono aspetti e forme del magico religioso. Anche in Pascoli, ma soprattutto in Caproni, se no non c'è il magico religioso, non c'è. Nei personaggi, no? Trovate sempre il dramma piccolo borghese, l'introspezione, che campo fa, ma nei romanzi nostri, anzi complessivamente il romanzo italiano è un formalmente che campo a fa, in realtà dietro dice, cioè, ma che campate voi a fa, no? Perché c'è solo... Ma voi che campata fa, che capite? Vabbè. Ma poi se nel romanzo italiano voi trovate rapporti con quei fantasmi, spiriti che vanno, che tornano, non c'è sta, il magico religioso non ce l'abbiamo. Uno per raccontare il magico religioso in Italia deve essere autorizzato dai sudamericani. Te lo trovi Torquemada, su tutti. Vabbè. E può essere che non ci fosse il maggio religioso. Io sto pian piano arrivando, però poi l'ho rivisto, una forma c'è sempre stata in me. E però resto sovrastato da tutti quelli che mi raccontano. Uno dei miei ultimi, subito dopo Canale, è uscito Le Iene del Circeo, Vita, morte e miracoli di un uomo di Neanderthal, un libricino con la terza, dove racconto il mio rapporto con i morti, insomma, no? Tempestato da telefonate. Ma sa che pure a me, una volta è venuto mio papà a rimboccarmi le coperte come faceva quando era vivo. Il rapporto con i nostri morti ce l'abbiamo tutti, il popolo ce l'ha. Gli animali. Nel mio romanzo questa mia zia parla con le api, mio zio Iseo parlava con le bestie. Iseo, che in realtà invece era Dio Gelindo, il nome vero era Dio Gelindo, Dio Gelindo Iseo, mio zio parlava con le bestie, con le si capiva più con le bestie che con la moglie, anche perché le bestie gli davano sempre ragione, la moglie invece no. Ma è una cosa che nelle classi subalterne c'è, forse il guaio è che la letteratura italiana l'avrebbe dovuta fare Ernesto De Martino, insomma, allora sarebbe stato diverso. Vabbè, io faccio queste cose, metto tutto assieme, e credo che però mettere tutto assieme, non nascondersi niente, sia fondamentale. Ora vedete, poco tempo fa io sono andato a parlare a Casa Pound, a Latina. Erano tanto tempo che mi invitavano. Ci sono andato quando ho detto di sì, quando, non perché, ma dopo che è stato aggredito Carlo Antonini a Perugia, reo, è stato aggredito da gruppi di sinistra, menato, perché aveva fatto un libro su Casa Pound ed era andato a parlare con quelli di Casa Pound. L'anno scorso la congia è stata aggredita perché è colpevole di essere andata a parlare con Casa Pound. Allora quando lo dite, no, allora io mo ce vado proprio, insomma, io, perché a me, se devi soprovare a dirmi non devi andare là, e quello è il momento in cui io ce vado, non esiste. Però c'è questo, c'è, mo a noi ci è diventato simpatico Fini perché ci serve. C'è stato un momento in cui subito abbiamo rettificato il tiro contro ordine compagni, una brava compagna pure la Carfagna, perché sembrava che venisse con noi. Fino al giorno prima era una zoccola che stava là, il giorno dopo compagni. Immediatamente il giorno dopo era diventata zoccola per quegli altri. Ecco, ma eppure la realtà è un po' più complessa. Il reale deve essere un po' più complesso di semplicemente scegliere tra Roma e Lazio. E io non vorrei, però vorrei, forse è il caso che mi sbrigo pure, perché, ma insomma le cose sono qui sottanti. Io credo che andiamo di questione della storia. Silone e Fondamara non mi piace. Perché lui non mi piace perché è un informatore dell'ovra, e nella storia mia e nel mio codice è consentito tutto. Nel mio codice è consentito sbagliare. Io sono stato, da ragazzo sono stato fascio, però non è consentito fare la spia. Fontamara non è un brutto libro, però c'è. È una visione parziale. Quello che lo accomuna al mio più che la storia degli umili, perché allora sennò allora ci stava pure Virga, ma quello che lo accomuna più al mio è che parte la storia di Bonifica. E oserei dire che, proiettato nel mio romanzo, è il punto di vista di quegli altri. È il punto di vista, cioè, di quelli ai danni dei quali è stata fatta la bonifica. Non so se... Ed è quindi un punto di vista parziale, E sì, quello è senza speranza, però. Non c'è la possibilità del riscatto e dell'avanzamento. Nel mio invece no. Gadda non ne parliamo proprio, perché insomma, non, io so, vengo dalla classe operaia, lavoravo in fabbrica fino al 99, quindi fino ai 50 anni, turni di notte, lavoravo anche nei cantieri. L'idea che uno cominci 50 libri e non ne finisca uno è contro la mia logica. Provate voi a chiamare lo stagnino a casa perché vi si è rotto il sifone, e quello che fa una cosa stupenda, ma ve la lascia a metà. Voi non solo non lo pagate, a quello gli menate pure, insomma. No. Ma è che se uno deve stringere e finire. Vabbè. Ma cerco di andare veloce. Dice, c'è il paragone tra Mussolini e Berlusconi? No, non mi permetterei mai. No, no, ogni periodo ha le sue cose. Non si può paragonare Berlusconi al fascismo, perché non è Mussolini. Che non è giusto storicamente ed è anche altissimamente, questo paragone tra Mussolini e Berlusconi è altissimamente offensivo nei confronti di Mussolini, perché è vero che è vero che pure Mussolini andava a donne, però poi non le faceva ministro o deputato. Allora, no, me la nomini, perché non c'ho. Ci sono questioni di famiglia con Alessandra Mussolini, no, passiamo oltre. Allora, e arriviamo alle questioni più. Dice la porta che comincia ad avere il sospetto che a te è meglio avete contro che a favore. Dice che però la mia idea della storia non gli pare dialettica, anzi gli pare tragica. Io penso proprio che no. Allora qui bisogna che ci mettiamo d'accordo. Compagno La Porta. Io ho la sensazione che la tua idea della storia, che sia un tantino troppo meccanicistica e non processuale. Forse su quello su cui non siamo d'accordo sono i tempi della dialettica storica. Sono i tempi della dialettica storica. Sì, ho la sensazione che i tempi della storia siano molto più lenti e diversi dei tempi delle singole vite individuali. Allora, come si chiama? Lei invece parlava di storia sociale, la storia materiale, insomma, ovviamente c'è la grande scuola degli Annales, del Brodel, partiamo da lì, la storia delle mentalità. E credo sono tempi più lunghi le storie delle mentalità. E allora si può ritornare, per quanto mi riguarda, si ritorna alle suggestioni di Leopold Ranke o di Vittorio Hugo, no? Quando dicevano che la storia dell'umanità andrebbe vista come la storia di un singolo individuo. Allora, in questo quadro, se tu ti metti sulla luce di questi tempi storici, allora il giudizio è diverso. E per me la storia comincia intorno a 2,5 milioni di anni fa, quando per la prima volta il primo di noi scende da un ramo e si mette a scacciare una pietra. È lì che inizia la storia. Perché è quell'atto, lo scheggiare la prima pietra, è l'atto che secondo me viene metaforizzato nella Bibbia dalla mela e dal frutto della conoscenza. Quello frutto della conoscenza. Per me, ripeto, io sono classe operaia, la conoscenza è il lavoro, è la stessa cosa. Quindi in quel momento in cui cominci a scheggiare la prima pietra, tu lavori e cominci a questo tuo rapporto con la conoscenza. Questo è un rapporto lento, lungo. E non è vero che nella mia visione della storia non ci sia il passo. Il passo è quello che fa la vite senza fine quando gira, no? Il passo è l'avanzamento. C'è, ma è lento. Allora, in tutti. Allora, Calvino, per esempio, gli dice a Pratolini, lo dice anche a Muscetta, che Metello non cresce, il personaggio non cresce. E gli rimproverano, dice, perché Metello, quando sta la lotta, Metello sta con l'amante, non è un personaggio, non è... Gli spiegavano lui come doveva fare i romanzi, Pratolini, capito? E invece Metello cresce. Proprio nel fatto che quando corre, perché è arrivato tardi, c'ha il senso di colpa dentro di sé, di essere stato con l'amante. Infatti quella è l'ultima volta che ce l'ha con l'amante. Dopo non ce l'ha più. Che vuoi? Te lo doveva spiegare? O è questa l'introspezione psicologica? E allora la può. E c'è chi mi dice pure, ma i personaggi di Pennacchi sono tutti perdenti, perché fascio comunista, Marigo viene ammazzato, il Mammut che sta riuscendo in questi giorni, al mio primo romanzo dove parlava di operai, quindi compratelo, perché c'è la fascetta, dice, il libro che Marchionne dovrebbe leggere, ma anche la Fiom. Dice, beh, lui, Fiom, io posso dire come mi pare? Allora, aspetta, allora dicevo, ma quelli hanno perso, oppure Pericle muore, o hanno perso. No, nei miei romanzi, perché per esempio qualcuno diceva, certo, mi ha gratificato leggere sui giornali, conosciuto Canale, che qualcuno, non il Manifesto, la chiamavano i promessi sposi, o Verga, te gratifica, dice, ammazza. Però io Verga non me ce li trovo, perché quelli di Verga sì, sono perdenti, perché te racconta gli umili, ma è lui da fuori che li racconta gli umili, è l'occhio dell'esterno. Io lo so che non lo dovrei dire, però è così, che è lo stesso occhio di Pasolini, però. Li racconta, ma da fuori, va in borgata, poi torna a casa sua. Questo Pasolini non verga. Viene a Sabaudia sulla duna, e dice, ah, incantaminata, amore, io la società di massa rovinerà tutto quanto qua, distruggeremo tutto, ammazzeremo tutte le lucciole, ah, no, non si fa. E però intanto lui e Moravia sono stati i primi a farsi la villa lì a Sabaudia. E lui e Moravia, quando ci venivano di notte, nel 2006, Alfa Romeo, facevano una pontina 148 fino alla Dina e poi girano da là, chissà quante ne hanno ammazzate loro le lucciole. Allora che c'è? Le lucciole si possono ammazzare, al mare ci puoi venire finché ci vieni tu. Finché venimo noi, i barbari, le classi subalterne, allora non va bene più. Non so se non mi piace. Non mi piace a me sto fatto. E Verga ci vede da fuori, dice, Madonna, ci fa bene il concetto di Verga, racconta giù, racconta gli umili, e poi dice, niente, ma che cazzo campare a fare, gli dice Verga, quasi, sparate, insomma, non è così. I miei perdono, ma vincono pure quando perdono, perché tutti i personaggi miei, tutti i miei romanzi, tutte le volte vanno al tappeto, si rialzano e ricominciano. Perdono, ma ripartono, ma sono subito pronti per un nuovo match. E quando muoiono, che non ci possono, lasciano il testimone al figlio, al nipote. Perché i miei hanno questa consapevolezza. Perché io ho questa consapevolezza. Che non sono in grado di raccontare e di fornire l'interpretazione esatta di tutto il reale. Questo non è alla mia portata, questo è alla portata di Dio, se esiste, è alla portata del lavoro complessivo alla fine della storia. Io quello che posso fare è riportare la mia interpretazione di quella porzione di reale, quella però la devo portare con un'estrema onestà e ce devo provare a cercarlo il senso nelle cose, non so se... Ma che comunque il mio senso sta nel sapere perfettamente io sto inserito nell'arco delle generazioni, io sono un tramite nell'arco delle generazioni, sto qua oggi e vi racconto a voi queste cose perché sono nato a Latina, fossi nato a Marzabotto avrei scritto cose diverse, ovviamente, no? Perché sono nato a Latina da mia madre e mio padre. Fossimo nati tutti quanti in Tanganica, non stavamo qua a parlare di questo, stavamo ancora appresso alle gazzelle, insomma. E quindi è quello che dicevo, non vorrei annoiare la porta, ma quando mi chiamano nelle scuole, per esempio, con i giovani, io quello che gli dico sempre ai giovani è che non siete padroni della propria vita, della vostra vita, non ci potete fare quello che vi pare a voi, non siete quindi, per esempio, padroni di suicidarvi, perché la vita non è vostra. Che tu sei quello che sei, stai qua, perché dietro di te ci sono stati tutti quegli altri. Tu sei quello che sei perché hai avuto da quelli là. E quello che hai avuto c'è il dovere di ridarlo. E allora io credo di avere fortissimo invece, che ci siamo tutti noi, il senso della storia, che il passo ce l'ha. Allora, per esempio, in questo romanzo, per esempio, ci sono i miei zii che fanno delle cose che non dovrebbero fare ma che hanno fatto. Ma sono le cose sulle quali erano pressappoco d'accordo almeno il 97% anche dei vostri zii. Quindi i miei zii poi hanno saltato, alcuni miei zii, non tutti, ma insomma, alcuni miei zii hanno saltato le camere del lavoro. Prima le avevano fatte le camere del lavoro, perché i nostri su erano socialisti prima. Poi c'è la grande guerra, ci sono i casini, ci bruciano il pagliaio, il padrone ci porta via le bestie. Allora, le cose che io racconto in romanzo Mussolini, in canale Mussolini, sono tutte rigorosamente vere, chiaramente miscelate. Quindi c'è la letteralità, sono tutti fatti o realmente accaduti alla mia famiglia o alle famiglie all'intorno. Ma in tutti i racconti della nostra famiglia, noi eravamo una barca, insomma, i parenti di mia mamma erano 14 solo, nel libro sono 17, quindi siamo centinaia. Ma nei ricordi di tutta la famiglia sono presenti due cose, sono l'incendio del pagliaio e quando il padrone ci ha cacciato le bestie. E sono cose successe quindi quasi 90 anni fa. Ma tutti noi, vi garantisco, stiamo ancora incazzati. Che posso fare? Siamo le classi subalterne, siamo come gli elefanti, le incazzature non ci passano mai. Allora, però, i miei zii vanno alla conquista della terra, vanno in Africa e fanno le cose che fanno, sparano gli abissini. Noi andiamo in Africa, non ci sono andati solo i miei zii, ragazzi, ci sono andati anche i vostri. Possiamo mettere come pare. Mi pare che Violante sia nato in Asmara, o dove. Mi pare che, sì, tutto dico io. Pure Valentino Parlato viene da là. Certo. Non erano solo i parenti miei, erano pure i parenti di Valentino Parlato e di Violante. Allora ragazzi, eravamo tutti. È l'unico Questo tutti non significa che eravamo tutti, visto che abbiamo fatto tutti, siamo tutti innocenti. No, c'è una differenza tra bene e male, ma l'unico modo per superare il male dentro di sé è quello di conoscerlo e di riconoscerlo. Allora, dicevo, quindi questi miei zii fanno, però c'è un passo in cui zio Adelchi dice al nipote: hai ragione tu, erano come noi, erano gli stessi nostri diritti, non lo dobbiamo fare. Che altro dovevo fare più io ai miei personaggi? Non lo dovevo raccontare, e questo non si può fare, questo è imbrogliare le carte. Non so se... Ma dicevo... Siamo molto contenti che sia stata raccontata. Diteglielo pure al manifesto. Sì, glielo stiamo dicendo anche se è qua stasera. Vabbè, allora sentite, ho finito, va. Però voglio dire, un passaggio c'è, è lento. Il passaggio dovrebbe essere quello della superazione del superamento della violenza. Sentite, io non sono uno storicamente non violento da sempre, quindi per mia fortuna non ho, ripeto, non per scelta, non ho commesso reati di sangue durante gli anni, quindi non ho partecipato, ma per fortuna, perché avevo litigato con uno, allora ho cambiato il giro, se no, perché in quel periodo eravamo tutti, quando hanno ammazzato Calabresi io sono stato contento. Il mio arrivo alla non violenza è relativamente recente. Anche in fabbrica io sono stato espulso dal CGL per le forme di lotta che praticavamo noi in Fulgorcari. Cioè noi, se la linea era quella, la linea è linea. Quindi noi, voi sapete, c'era Toriana Pecchioli, rispetto al quale fino ai cazzotti davanti alla fabbrica, davanti ai picchetti, era lotta di massa, se poteva fare. Le aggressioni ai capi reparto invece fuori era diventata terrorismo. E noi invece, che andiamo a fare? Allora, dicevo, oggi no. Oggi credo che la non violenza assoluta sia proprio quella di Don Primo Mazzolari, no? Che dice, tu non uccidere. Gli altri facessero quello che te gli pare. E però questo forse ci arriveremo. Nel senso che il segno ce lo dà proprio, questo lo dicevo in un altro testo che si chiamava L'autobus di Stalin, di cui c'è stata anche una riduzione teatrale, forse alla fine di marzo c'è stata una cosa, la fa Clemente Piernarella all'Eliseo, in cui dicevo questo, in questo testo L'autobus di Stalin, io dicevo, fermi, prendevo in esame la questione dei crimini dello stalinismo, e io, fermatevi, si fa presto a di crimini, ognuno riguarda pure quelli degli altri, perché in effetti io non dico che fosse giusto e bello nella maniera più assoluta, però il crimine principale che viene attribuito ai paesi del socialismo reale, qual è? Quello che aveva utilizzato il sistema del gulag come una forma di schiavitù, cioè come una forma per il progresso, no? Questa è l'accusa principale. In realtà lì che cosa gli hanno fatto? La colpa vera è una colpa, ma la differenza vera con l'Occidente, con lo sviluppo dell'Occidente, qual è stata? È quella che tu hai, attraverso il sistema duro, imposto ad una generazione sola i pesi, i corvelli, i gravami, e i gravami che il capitalismo ha spalmato su 4-5 generazioni. Perché pure il capitalismo in Inghilterra nasce coi ragazzini dentro le miniere, perché i miei zii sono stati in miniera, mio papà per un breve periodo nella miniera di Lignite, ma mio zio Torello poi se n'è partito da Lumbia, è andato alla Louvière in Belgio dentro le miniere di carbone, e mio zio Torello è morto quasi di così. Quindi non è per fama. Io stesso ho riconosciuto dal giudice e quindi poi dall'INPS 20 anni di esposizione all'amianto. Quindi non ci rompete i coglioni, voglio dire. L'unica differenza è che lì hanno fatto una generazione sola. Qua in 4-5 generazioni. Solo che lì una generazione sola l'hanno fatto fa tutti. Qua l'avete fatto va solo alle classi mie. Questo è allora bisogna valutare bene, insomma, no? Perché certo che la fine del Novecento ti dice che quegli esperimenti sono andati male, ci avevamo provato e sono andati male, d'accordo, ma questo non significa che sia questo il bene assoluto, no? Significa che dobbiamo cercare altre forme. Senza purtroppo accelerazioni, perché poi la verità è che il pensiero di Marx era una cosa, il marxismo-leninismo e lo stalinismo erano un'altra, e poi nel pensiero di Marx oserei dire che è la globalizzazione che è marxiana, perché il pensiero di Marx diceva che il capitalismo sarebbe crollato, il saggio di profitto, tutte queste cose, quando ci sarebbe stata la saturazione del mercato. Il mercato tu lo puoi saturare solo prima di lei, cioè, Marx è andato prima comunque, sì, stava nel capitale, comunque mi sa che era nato prima Marx, comunque ecco, aspetta, però voglio dire, allora lo so, il socialismo, boh, non lo so, in ogni caso a me non mi piace. Se c'è sta troppa differenza, soprattutto se quello che sta sotto so io o i miei figli, perché ho quasi finito, dicevo, vabbè dai, però c'è, e il segno te lo dà per esempio le questioni della tortura. Ancora adesso noi occidentali torturiamo, abbiamo torturato a Guantanamo, a Abu Ghraib. Io credo che sia semplicistico dire sono stati gli americani, noi no, perché poi sai, in certe condizioni non lo so, insomma, dicono. Visto ce li abbiamo, i soldati poi si debbono. Perché poi dice sì, ma i miei non fanno, i miei non crescono, i miei crescono. Mio zio Adelchi, nel libro e nella vita, mio zio Adelchi l'ha detto. Cosa posso fare, che erano i tempi, ma i gave anche a loro il loro raso, no? Noi però abbiate pazienza, quindi mio zio l'ha capito che non si dovevano andare a conquistare gli imperi. Io credo che però tra andare a conquistare l'impero e voler esportare la democrazia con i fucili e i carri armati non è che ci sia poi tanta grande differenza, ragazzi, non so se... Ma comunque sai, poi questo ognuno se le... Io ho scritto romanzi, non volevo fare niente, però il passo c'è. Perché su Abu Ghraib e su Guantanamo tu hai chiesto scusa. Tu oggi dici, c'era un testo americano che diceva proprio dura necessità, no, per salvaguardare la vita dei nostri, ma sai che è sbagliato. Diceva, chiedi scusa. 20 anni fa, ma 30 anni fa manco la chiedevi scusa. 30 anni fa eri convinto che io ti torturo, come dice, lo devo sapere, dove sta a billare, come dice Tito Livio, aut malo, aut necessario facinore, non bisogna vedere se è cattiveria o se è necessità. Oggi sai che è sbagliato, fra qualche migliaia d'anni non lo faremo proprio più. Questo è il passo della storia, è lento, che ci volete fare? Non è, ma c'è, ho finito. È doveroso dare un minuto a Filippo Laporta per una battuta, sì, su... Una battuta, è stato chiamato molto in causa. Sì, figuriamoci. Lui mi aveva chiamato a me prima. Sì, certo. Manco volete fare difendere? No, ma veramente mi prendo un minuto, obiettivamente bisognerebbe discutere per molto tempo dei temi che lui ha sollevato. Semplicemente no, sull'idea di storia, effettivamente io pensavo quasi di nobilitarlo, ti volevo mettere accanto a Tolstoi, a Elsa Morante, tu vuoi stare con Metello di Pratolini, vabbè, che posso farci? Metello è un romanzo bruttissimo perché, mamma mia. Sì, perché è edificante, non perché è realistico, è edificante, è falso, è un romanzo falso. Lo stesso Pratolini ha scritto libri molto più belli, no, molto più belli, come Un eroe del nostro tempo e Lo scialo, va bene, andiamo avanti. Io diffido dello storicismo che è stato hegeliano, poi crociano, perché sottrae la storia al giudizio morale, tutto ciò che è reale è razionale e quindi si tende a giustificare tutto. Ecco, io personalmente diffido dello storicismo, io credo che ogni progresso implica un regresso. Penso come Elsa Morante che la storia umana è uno scandalo che dura dai 10.000 anni, ma questo non vuol dire che sono disperato. Ogni giorno c'è una resistenza a questo scandalo, ma dove si trova questa resistenza? Questa resistenza si trova nell'utopia concreta di tanti gesti, di comportamenti individuali che ci mostrano delle logiche diverse dalla logica della forza, ma è questa l'unica utopia concreta, quella almeno in cui io credo, e non si muove sul piano della storia. Sul piano della storia non c'è il bene, non c'è l'utopia, c'è Hiroshima, che forse è stata necessaria perché ci dicono ha risparmiato tante vite umane, ma non è il bene, su quel piano non c'è il bene. Ecco, questa è la mia idea. Ultimo, su Silone mi dispiace dirtelo, ma voglio dire, è stato amato da tutti, da Faulkner, Eric Boll, in Italia non lo amano, a Sorrosa e Pennacchi, me ne farò una ragione, ma che vi devo fare? Sì. È finito, sì, sì. Scusate. Ecco, io non... Perché Terracini ha detto che lui faceva il triplo gioco e quindi faceva finta di informare l'opera e dava informazioni trascurabili su fatti trascurabili. Quindi hai detto una stronzata. Dunque, scusate. Scusate, sulla questione dell'opera, una persona che è venuto spesso alla Fondazione Bassi è Mauro Canali, che ha studiato, esatto, che ha studiato le carte e insomma potrebbe ragguagliarci su questo. Non credo che ci sia una cosa, una linea di demarcazione così netta, è molto complicato, sono perché molto, la storia sono ambivalenti quelle carte. La storia è complicata, è complicatissima. Io sono molto d'accordo sulla questione dei tempi lunghi, le annale, e non sono gli eventi singoli che rendono ragione di qualche cosa, ma sono i tempi. Non siamo mai al riparo dall'orrore. No, certo. Come diceva Primo Levi, non siamo mai al riparo. Non siamo mai al riparo dall'orrore, e questo indubbiamente. L'unico modo è la storia per andare. Sì. Io devo dire una cosa, il dibattito è stato così interessante che però qualcuno diceva ma cosa possiamo aggiungere noi? Io invece mi piace molto il modo in cui le persone che vengono qui o che sono venute qua fino adesso e hanno seguito aggiungono qualcosa a quello che in genere gli autori o le autrici hanno da portare, no? E tanto più gli introduttori. Per cui, prego, mi piacerebbe molto sentire un po' anche la vostra voce. Non abbiamo molto tempo, purtroppo, perché diciamo grosso modo che tra un quarto d'ora, 20 minuti massimo, dobbiamo dare la parola alla nostra Marina Magoni che deve leggere Dita di Dama. Ero Claudia, volevo una curiosità soltanto. A un certo punto si parla di finito il periodo della guerra, eccetera, di una religiosità, di una sì, una religiosità, un interesse per la religione che improvvisamente pervade un po' tutti i personaggi e tutte le persone che sono lì nella bonifica. Però non si spiega bene perché è successo, rimane un po' in sospeso. Ero solo incuriosita da questo fatto. Guardi, il mio compito non era spiegarlo. No. Il mio compito era raccontarlo. Raccontarlo. Però... Io credo che ci sia innanzitutto una cosa che mi hanno detto che c'era già in Ernesto De Martino, che è quella della religione della terra. Quindi il rapporto religioso, ma che trae una forma di sincretismo, insomma, che anche con le cose, gli antichi miti della nascita dalla terra, delle cose. E quindi c'è il senso religioso, ma lì ci si matura una scelta che è derivata dal fatto dell'integrazione sociale. Quindi la chiesa, la religio, proprio la parola religio che, da dove viene? Lego. Quindi la religio come strumento di integrazione sociale. Passato il primo momento, appropriatesi finalmente della terra come diventati di lì, sono a quel punto nasceva anche la religione. Loro sono quotidiano. Aspetta, no, sono un enclave. Sono un enclave, come dice, intorno a loro ci sono solo i leoni, quindi debbono unirsi, debbono essere una comunitas, un corpo unico per far fronte al per far fronte alla fame, alla lotta contro la natura, alla lotta contro il mondo esterno. Quindi i fattori di integrazione sono innanzitutto il pellegrinaggio che loro fanno, certo, portati giù. E poi però l'integrazione ha bisogno di essere, il patto integrativo, il patto associativo deve essere costantemente riaffermato. Le faccio un esempio. Io l'altro giorno stavamo in Marocco, io e mia moglie, perché c'era la Fiera Internazionale del Libro in Marocco. E fuori tra la Medina e Casablanca, dove c'era una discesa e poi cominciava un grande viale di questi del traffico, e c'erano due ragazzini che correvano, un bambino di 5 anni che corre giù verso il, dalla Medina scende dalla città vecchia, scende verso il, la strada grande, c'era un ausiliario del traffico, di quelli con la cosa gialla, lo prende e poi le botte che gli ha dato lei non c'è. Io stavo quasi, mia moglie diceva, fatta gli affari tuoi, io insegno a loro come devono fare qua. Le botte che gli ha dato, lei non ha idea. E sto ragazzino poi, tornato su de corsa, e piangeva. E mi ogni te vedrai che quello sulla strada non ce l'ha più. Ecco. Allora, qui sarebbe la fine del mondo, insomma, se uno menasse un ragazzino da un altro. Il concetto è che lì c'è ancora il controllo sociale. Il figlio non è tuo, il figlio è della collettività, non so se è della comunità. E tutti dobbiamo... Queste sono le cose che il controllo sociale ti dà, da una parte ti dà repressioni, riduzione della libertà individuale, ma dall'altra ti dà l'ausilio a far fronte, ti dà la forza, ti dà rassicurazione. E quindi tu hai bisogno di tutta una serie di riti perché ti integrano con gli altri, quindi andare a messa la domenica, andare al borgo, dire il rosario, tutte queste cose. Diventa la canalizzazione di una serie del sentimento religioso che tu hai per conto tuo, insomma, non, con la terra, o anche cioè, il magico religioso si chiama proprio questo. Ammettiamo un attimo che lei fosse completamente atea, quasi sicuramente però tutte le mattine quando lei si alza si mette sempre prima la calza destra e dopo la sinistra, non so se o mette il piede, ci sono una serie di forme di ritualità che noi adesso insite in noi, insomma. E quindi io credo che lì la religione abbia funzionato proprio da fattore di integrazione sociale, soprattutto poi se lo misura dopo, in quanto loro arrivano al 32, il fascismo regge fino al 43 e poi cade, sono ancora una comunità piccolissima, queste comunità ancora debole, queste comunità invece restano fortissime, se lei va nei borghi intorno a Latina ancora parlano veneto, ci sono le feste del borgo che durano 20 giorni eccetera. E questa funzione di unificazione gliela dà la religione, che poi, scusate, ma questo è un fatto storico. Storicamente le religioni hanno poi funzionato come fattori di unificazione anche e di aggregazione. Questo credo. Per quanto riguarda credo, la storia, io credo di no, non ci sia possibilità. Credo che sia illusorio pensare che ci sia un'età dell'oro nel passato. E che ci sia è la storia che va avanti che crea l'orrore, no? L'orrore c'è già, c'è quando vengo al mondo, c'è l'orrore di essere aggredito dai microbi e da una natura che mi è ostile. Ognuno di noi viene gettato in un mondo che non è un mondo dove dominava il segno del bene, è un mondo dominato dal segno del male, in cui tutto congiura contro di te. L'unico modo per tentare di negare è quello di andare avanti. Comincia con quel momento lì, la storia è solo la storia abbiamo, non abbiamo nient'altro. Credo. Rassicuro Filippo Laporta, a Sabaudia c'è un piccolo monumento alle donne della bonifica. Ci sono rari, sì, però soprattutto le donne, questo secondo me è molto importante. Forse se ho pensato falso, ma ho pensato che quando la fine si sente. Sembra che si sente. Quando il racconto che viene concluso si scopre che quello che l'ha concluso sì. È il figlio, il nipote ed è diventato sacerdote, c'era anche un messaggio salvifico rispetto al delitto che era stato commesso certo. Anni prima. Io l'ho interpretato in questo modo, era quello, no? Che non è quello che volevo dire, è quello che probabilmente è successo, ma che c'è già nella nonna, no? Che vuole mandare qualcuno come prete perché c'è Axiande Mappari, no? Sì, sì. Uno non ho tolto e uno non gliene ridò. Ma non è solo quello, ovviamente. No, non solo cioè, quello, i messaggi sono tanti. Guardi, ai messaggi però uno ci pensa dopo. No, cioè non è. Aspetti. Evocano, Sì, ma non è che ho fatto le scelte narrative in base al messaggio che dovevo dare. Era il racconto. E dopo mi metto lì e dico, ma può essere che significava questo? Ma lo scopro dopo. Dopo lo racconto. Sì. Eh? Fantasioso Don Pericle. Io a questo non le posso rispondere. Cioè, perché lei ha detto che è un narratore, perché non può rispondere? Come? Ha detto che lei doveva raccontare i fatti, non doveva spiegare il sentimento, sì, religioso. Perché non mi può dire se un suo perché parte, questo parte... non glielo voglio dire, perché vede, le ho detto, i fatti sono tutti. Aspetti. I singoli fatti sono tutti fatti veri, li ho mischiati per evitare che qualcuno si potesse riconoscere, quindi ho detto, i singoli fatti sono tutti veri, o capitati direttamente alla mia famiglia o capitati alle famiglie all'intorno, quindi sono tutti fatti veri, però ci sono alcune riconoscibilità, alcune cose che non vanno notate, quindi questo io, se le interessa sappia che, allora vediamo. È vero che all'Armida viene fatta passare sul... quella è una cosa di una crudeltà incredibile. È vero che l'Armida, che il nonno voleva partire prima lui, e la nonna lo ferma. L'Armida prende il bambino che aveva in braccio, il piccolo, lo dà alla cognata e lei con il suo pancione si fa il campo minato. Quello è vero. Ed è vero che c'è un mio cugino che adesso è andato in pensione, sta a Terracina, ma fino a un paio d'anni fa era parroco di un borgo della Roma. Comunque la fine della storia fa intendere come se lei vivesse intensamente nel suo cuore un senso di giustizia della vita. Adesso lei, con quello che ha raccontato in queste due risposte, ha smentito un po' il mio pensiero, però è quello che un lettore attento, secondo me, capisce alla fine della storia. Dice giustizia o ingiustizia? No, giustizia. Giustizia. Perché praticamente Pericle toglie, sì, un buon prete, sì, alla vita. Però ha rimorso, insomma. Si capisce, sì, però se ricordi sempre che quel prete là, però, stava a mettere in piedi i Boy Scout. Vabbè, e i Boy Scout, mo sono di pace. Ma quando sono nati erano di guerra. Sì, lei lo spiega, però diciamo che insomma il prete figura come un prete buono. Vabbè. Allora, io volevo semplicemente preventivamente denunciare la presenza qui di una sparuta rappresentanza del 2,5% di gente, cioè, che viene da famiglie che non ha avuto niente a che vedere col fascismo salvo la persecuzione. E proprio per questo, perché i nostri, diciamo, antenati sono stati perseguitati gravemente dal fascismo, noi, penso di poter parlare anche a nome del resto della delegazione, siamo, diciamo, dissenzienti su questa valutazione dello stalinismo. Non è una contraddizione, è proprio, deriva da quello, cioè noi siamo, come? Dello stalinismo, certo, dello stalinismo. Noi non possiamo, diciamo, tra virgolette, giustificare lo stalinismo in nessuna maniera, proprio perché veniamo da un'esperienza in cui il fascismo in casa nostra non è mai entrato. Questa era la premessa. Invece la domanda che volevo fare sul romanzo, che voglio dire a me è piaciuto moltissimo, è questa. Questi signori che sono venuti dal nord erano dei, come sono stati definiti, dei poveretti, che però erano chiaramente privilegiati dall'Opera Nazionale Combattenti perché erano ex reduci. Molti erano fascisti, tant'è vero che la parte socialista della famiglia è restata là sopra, o no? Sì. Ecco. Ma non era deserto l'Agropontino, c'era della gente. Allora, io nel libro di questa gente ho trovato delle tracce, ma non ho trovato un racconto che mi sarebbe piaciuto trovare. Cioè, questi pure erano dei poveracci e dei contadini. Ne parla, ma ne sono tracce. Sono tracce. A questa gente non è stato assegnato neanche un podere. Perché non avevano combattuto o perché altro? Domanda per Antonio Pennacchi. Sì, rispondo subito, sentiamo gli altri. C'era un'altra domanda? La mia era una domanda molto prosaica. Volevo soltanto sapere se si chiama ancora Canale Mussolini, perché ho cercato su una carta del Lazio abbastanza dettagliata, corrisponde al canale delle acque artesanali. Sì. Sì. Allora, ho indovinato. Anzi, una ulteriore domanda: perché il canale delle acque alte adesso è quasi sempre in secca? Perché non è una sovranità delle miglie. E invece il canale delle acque medie è sempre, diciamo, alla puntata massima. Che acque medie? Va bene, allora. Allora, acque medie, allora. Ufficialmente si chiama, no, ufficialmente sulle carte che è segnato come canale delle acque alte, collettore delle acque alte, in realtà poi tutti lo chiamano canale Mussolini, insomma, si dice il canale delle acque alte, manco, no, ma credo da Egeri Maccarese, dice il canale delle acque basse, sì, sì, sì. Oh, allora. Quindi è quello, sarebbe. Lui è in effetti il collettore delle acque alte, perché le acque sono divise in acque alte, acque basse e acque medie. Le acque alte sono quelle che arrivano da fuori palude, e che però sono le più alte, che vengono portate immediatamente a mare. Le acque basse, quelle che vengono dalle bassure, vengono sollevate con le drovere. Le acque medie, quelle sono quelle dei monti Lepini, medie, che vengono portate direttamente al mare. Allora, il canale Mussolini, collettore delle acque alte, non è che adesso è perennemente, non è che adesso è in secca e una volta no. Lui ha un regime di acque, il canale, essendo il collettore delle acque alte, che è normalmente basso, e quindi quando lei nello grande scavo che lei ha, lei vede solo il nastro centrale, che è quello nella savanella, il cunettone centrale di Magra. Lui impaludava, la sua pericolosità era dovuta al fatto che quando arrivano le grandi piene extra palude, quelle da Colli Albani e quelle da Monti Lepini, e le piene sono, quando sono rare, quindi non, ma velocissime ed impetuose. Quindi quando ci sono le piene, quello si riempie da una parte all'altra e certe volte riesce fuori ancora. Quindi, come dice, quello è una. È un alveo che ha un corso normale che è limitato al, ma 6, 7, 8 giornate all'anno si riempie tutto e a volte non ce la fa. Non so se in quei momenti che la potenza è. Però a me fece un effetto del genere, perché ai miei tempi, quando ero bambino, ci facevano imparare le cose a memoria a scuola. Sul Risorgimento si studiava Cavour, dice il canale Cavour, il canale Cavour. Quando andai in Piemonte la prima volta, il canale Cavour, quando l'ho visto, dice, Madonna, questo era il canale Cavour. Allora, il canale Mussolini in piena fa ancora paura. E poi facciamo. No, aspetti, no, c'era invece una cosa che diceva. Come si chiama lei? Chiara Spano. Allora. Vede, rispetto allo stalinismo, ho detto solo due battute qui, quindi io la invito. Anch'io ho fatto solo. Aspetta, abbiamo detto solo due battute qui, quindi la invito la rimando a quel testo che avevo scritto, si chiama appunto L'autobus di Stalin. Non sono cioè un negazionista. Io non faccio l'apologia dello stalinismo, cerco però non mi piace che si usi, che con la scusa dello stalinismo, la critica se usi quello per dire allora va bene il capitalismo, va bene il liberalismo. No, qui ci stanno, nella storia ci stanno tanti orrori. Eh, Però bisogna valutarle, bisogna averne contezza. Rispetto invece all'altra questione che lei poneva, che è quella dell'Agro Pontino, che non era deserto, che c'erano gli altri, che c'erano, che bisognava raccontare pure quelli, lei mi perdoni, lei mi perdonerà, ma non è una critica che non è la prima volta che mi viene fatta, mi viene fatta diverse volte. Il guaio però è che mi viene fatta sempre con il tono, non parlo del suo caso, ma negli altri, specialmente lì, quasi per dire che allora o raccontavo anche di quelli o non dovevo raccontare questi. Non so se. Allora, nel romanzo è scritto chiaramente che questa è la mia visione, cioè no, non questa, non è la mia visione, questa è la visione di Don Pericle, anzi, gli dice, neanche, questo è quello che gli hanno raccontato i suoi, e dice pure, è chiaro che ognuno racconta le sue, ognuno suona le sue campane, anzi, lui fa pure il tentativo di farsi carico delle, lui ci prova a guardare, a tener conto pure degli altri punti di vista. Però lo sa, nonostante questo so che questa è la mia visione. Se poi deve, aspetta, se deve andare a sentire, vada a sentir loro e se la raccontassero loro, la campana loro. Non so se quindi lei gli deve chiedere a quelli dei Monti Lepini di scriverselo loro. Non posso pretendere che glielo scriva io. Insomma, io ho raccontato la voce dei Veneti, la voce nostra, ma la prego. Se lo riguardi a vedere, se lo torni a rivedersi, ho pure cercato di prendere atto delle. L'ho detto che c'erano, ma guardi, e qui il problema torniamo a monte alla storiografia. Perché tutta la storiografia che si è occupata di questo tende sempre, però, quindi che so, parlo di. A partire da Riccardo Mariani, Fascismo e Città Nuove. Poi anche Franzina Parisella, l'American Piscinara, Oscar Gaspari, Folchi e tutti quelli che so come. Si tende sempre a giocare sui numeri. Non so. C'era già, non era res nullius la palude. Fermi, c'è un problema di numeri. In quel territorio, sulle paludi, intorno alle paludi, sulla montagna, c'erano le altre popolazioni. Ma ci sono gli studi di demografia storica che il loro sostentamento, i monti, se lo trovavano in montagna, non in palude. Il grano lo coltivavano là sopra, non giù. Giù, in palude, nei mesi invernali, 700 km quadrati, la popolazione, che aveva carattere nomade, perché era legata alla transumanza soprattutto, non superava le 2000 unità. Nei mesi estivi non arrivava alle 20 unità, quando cioè i pastori della sociaria se ne ritornavano su, e tanto è vero che quando c'è la bonifica e l'appoderamento di terre, non è vero che sono i Monti Lepini che chiedono subito la loro parte di terre, non li chiedono, gli unici paesi che chiedono subito che gli vengano assegnate le terre sono Ceccano e Castro dei Volci, perché sono i paesi da cui venivano i pecorai giù, non so se. Ma parliamo di le popolazioni ristrettissime. Oggi ci stanno 350.000 abitanti lì. Quindi io le racconto la mia. La loro fu che però la realtà storica è la realtà storica. Andatevi a vedere. Ma non era un informato romanzo. Io volevo sapere da lei un'altra cosa. Capito? Cioè, non faccio una. Sì. Questo è il romanzo nostro, della nazione Veneto-Pontina, sì. Cispadani, che poi ora siamo, vede, poi io dico Cispadani, la nazione Veneto-Pontina, io oramai la nazione Veneto-Pontina, io intendo anche loro, perché oramai questo è un oramai i legami tra la montagna e la pianura sono fortissimi. Sì. Sì. Perché aspetti, sì, però credevo ci fosse. Ad un certo punto vengono dati dei poteri anche a loro. Quindi nella zona di Pontinia ci sono molti appoderamenti anche con famiglie sezzesi e di Sezze e di Bassiana, anche di Sermoneta. A un certo punto verranno dati anche a loro. All'inizio, dopo. All'inizio la scelta è invece di far venire quelli dal nord, perché è un problema di economia agraria, perché loro hanno bisogno, avendo deciso di fare i casali a case sparse e di un'agricoltura mista, estensivo-intensiva, quindi dovevano mettere i cereali, il grano, ma dovevano mettere anche il bestiame richiedeva che sul terreno ci fossero famiglie con cultura mezzadrile, perché sapessero fare tutte le operazioni dell'unità produttiva agraria. I braccianti non erano in grado di farlo, non lo sapevano fare. Nel Lazio la mezzadrile non c'era, questo è Emilio Sereni che scrive Storia del paesaggio agrario italiano, lo spiega benissimo. La mezzadrile in Italia sta solo in Toscana, Umbria, Marche e Val Padana. Quindi loro hanno bisogno di chi risieda lì. In più c'era l'abitudine, in più il bracciante centro-meridionale ha l'abitudine mentale proprio che anche in Sicilia esce, abita in paese, va a lavorare il campo anche a 10 km e poi la sera torna in paese. Loro invece avevano la necessità, l'allevamento del bestiame richiede che tu devi stare lì, perché devi mungere le bestie due volte al giorno, e quindi fanno venire mezzadri per questo. Sì, anche lì veneti. Marche, dal Veneto, sì, sì. È lo stesso motivo, perché non c'era, vabbè, questi della Marimani erano assolutamente impossibilitati a farlo, però sono stati portati dal nord proprio per questo. C'è una motivazione economica e poi c'è anche la motivazione di le abitudini si sradicano. Purtroppo io sono desolata.